sei capace tu a cambiare la gomma? Ma figurati cosa sono capace, guarda. L'importante è incontrare qualcuno che sappia farlo. Guarda. Voi non avete problemi. C'è un ascoltatore che dice: che bella via che avete trovato per risparmiare, Deborah e Nicoletta. Fare la spesa con la carta di credito altrui. Che cosa c'è di più bello? Adesso dovete farci questa gentilezza con silenzio, consegnare le cuffie ad Antonio Caielli e Mirko La Bella, che adesso altrettanto silenziosamente si avvicineranno. Invece alle... che changer la femme, changer la cuffia. La cuffia. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Un pizzico in meno, tanta salute in più. Parlo del sale, ne consumiamo troppo e lo facciamo spesso senza rendercene conto. E la stessa cosa potremmo dire dello zucchero. La nostra dieta è dolce e non è solo colpa dei cucchiaini che aggiungiamo al nostro caffè. Allora oggi prendiamo in esame una nostra giornata tipo e proviamo a capire se la nostra dieta è troppo dolce o troppo salata, perché questa non è solo una questione di gusto ma di salute e in modo particolare di pressione. Sono infatti numerose le ricerche che dimostrano una relazione diretta tra il consumo di sale, di zucchero e di fruttosio in particolare e i valori pressori. Ma questo è solo uno dei tanti temi che toccheremo nella puntata di oggi dedicata all'ipertensione e che vorremmo proprio costruire partendo dalle vostre domande. 800 24 00 24, un numero verde per fare chiarezza su questo fattore di rischio di cui sono noti gli effetti sulla salute ma per il quale l'attenzione è inspiegabilmente bassa, quindi se volete saperne di più chiamateci, se avete un familiare iperteso, se avete scoperto di esserlo da poco, se siete in terapia ma non siete soddisfatti, se vi capita ogni tanto, magari quando andate dal medico, che la vostra pressione si impenni per poi tornare nella norma. Si chiama ipertensione da camice bianco, ma gli sbalzi pressori possono avere anche altre cause. Vi è mai capitato? Vi aspetto per parlarne con il nostro esperto. Invece per la pagina di denari, oggi come ogni giovedì diamo spazio alla rubrica Investire Informati, ma in un certo senso continueremo a parlare di quelle situazioni in cui ci si sente un po' sotto pressione, ci capita spesso quando si parla del nostro denaro. Intanto anticiperemo i temi di una grande manifestazione che si svolgerà la prossima settimana a Rimini, l'IT Forum, l'edizione 2015. Uno dei temi dei quali si parlerà riguarda il rapporto fra cliente e consulente finanziario. Noi lo affrontiamo oggi questo rapporto concentrandoci sulle emozioni. Quanto conta l'aspetto emozionale negli investimenti? Come può guidare le nostre scelte di risparmio? Ci aiuterà ad affrontare questo argomento un coach? Intanto 800 24 00 24, cominciate a rifletterci un attimo e raccontateci se è stata un'emozione a farvi fare una scelta importante per la gestione dei vostri denari. Sì, con un poco di zucchero, mia bella Deborina, la pillola va giù, ma la pressione va su Mary Poppins, non poteva saperlo, ma noi da oggi non abbiamo più scuse, strano ma vero. Ci avete mai pensato? Chi soffre di ipertensione sa bene che la prima cosa da fare è controllare, semmai limitare un po' il consumo di sale, ma finora nessuno immaginava che fosse da moderare anche il fruttosio, una qualità di zucchero contenuta soprattutto nei dolci industriali, nelle bibite gassate e iperzuccherate. Allora fate un rapido calcolo e valutate se siete potenzialmente a rischio. Ne parliamo oggi con il professor Claudio Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Professor Borghi, bentornato. Grazie, grazie infinitamente ancora per l'invito. Professore, può sembrare strano che la nostra salute, in particolare la nostra pressione, abbia un rapporto così stretto con questi due ingredienti che noi pensiamo di usare a piccole dosi, a pizzichi, cucchiaini, ma che evidentemente consumiamo in dose eccessive. A dire la verità, del sale già sapevamo, ma non ci aspettavamo che anche lo zucchero potesse essere responsabile dell'aumento dei valori della nostra pressione. Quindi parliamo del saccarosio, che è composto da glucosio e fruttosio, non ha solamente effetti sulla nostra glicemia, ma riesce a fare anche altro, a muovere la nostra pressione. Ma ci spiega come fa? Sì, il meccanismo è un meccanismo relativamente semplice ed è qualche cosa di importante, perché è verosimile che i nostri valori di pressione, come molte altre nostre caratteristiche, dipendano da quello che mangiamo. Probabilmente la nostra illusione in passato che tutto questo fosse innocuo derivava dal fatto che noi eravamo abituati a mangiare una certa quantità di cibo, ma svolgere un'attività fisica molto più intensa. Oggi mangiamo la stessa quantità di cibo, alcune volte addirittura superiore, qualitativamente peggiore, e ci muoviamo di meno, e quindi fatalmente non facciamo altro che andare a risvegliare quella potenzialità di sviluppo per le malattie cardiovascolari e per l'ipertensione in particolare che è dentro di noi. Per quello che riguarda lo zucchero, fondamentalmente il dato principale è il fatto che l'ingestione di zucchero stimola in qualche modo la produzione di insulina, e questo aumento della produzione di insulina a sua volta ha una serie di effetti, soprattutto a livello vascolare, ma in particolare a livello renale, in quanto influenza il riassorbimento del sodio e quindi del sale. Quindi vede come si ricrea questa sorta di circolo vizioso in cui il sale rientra in gioco, ma rientra in gioco non come diretto responsabile, ma come meccanismo che viene chiamato in causa a suo malgrado nella genesi dell'ipertensione. Il fruttosio in più ha una serie di caratteristiche particolari, e sono quelle che lo hanno caratterizzato come probabilmente cattivo fratello nel corso degli ultimi anni, che è la capacità nella sua trasformazione, quindi quando entra nell'organismo e viene trasformato dal punto di vista biochimico, di generare quello che si chiama stress ossidativo, un concetto che oggi è entrato in tutte le case. Non credo che tutti i nostri ascoltatori ne conoscano le caratteristiche biochimiche, ma certamente conoscono il significato di questo stress ossidativo, che altera la funzione dei tessuti ed è uno dei primi promotori di quelle alterazioni delle nostre arterie che poi danno origine alla malattia aterosclerotica. Quindi capisci come l'orizzonte biochimico sia molto più complesso di quello che noi ci aspettavamo in passato. Quindi, professor Borghi, noi insomma alla fine possiamo farcela, no? Non eccedere con il sale, limitare il consumo di fruttosio, sono questi piccoli accorgimenti che possono evitare o posticipare l'ipertensione. Ma voi medici raccomandate anche di ridurre il sovrappeso e di fare attività fisica. Tanto, professore, che prima di iniziare una terapia, il medico, se i valori della pressione sono di poco superiore alla norma, raccomanda di perdere qualche chilo, e se noi lo seguiamo vediamo che la pressione per incanto scende. La stessa cosa succede aumentando il numero di passi. Non è una magia, naturalmente, professor Borghi, ma come funziona? E soprattutto, funziona per tutti? Sì, sicuramente funziona per tutti, e questo è un messaggio indirizzato a chiunque voglia vivere sano. La cosa importante, anche rispetto al discorso che facevamo prima, è proprio questo, che noi non vogliamo mandare dei messaggi sostanzialmente negativi nei confronti del cibo. Vogliamo semplicemente che tutte le persone siano in grado di rendersi conto dove si ferma il limite del piacere o il limite dell'utilità e dove incomincia il limite del pericolo, ovviamente per cose che facciamo abitualmente nel corso della nostra vita. In particolare questa dell'attività fisica è una importante. La nostra l'attività fisica induce fondamentalmente un miglioramento di tutti quei meccanismi ai quali facevo riferimento in precedenza, e quindi favorisce il buon funzionamento dell'apparato cardiovascolare. Quindi muoversi è sicuramente una cosa estremamente efficace, ridurre il peso corporeo è una cosa altrettanto efficace. Combinare queste due cose, che rappresentano forse la quintessenza dell'intervento, quindi ridurre il peso corporeo camminando, automaticamente moltiplica il beneficio e riduce in maniera significativa i valori di pressione. Senza fare cose eroiche, non dobbiamo essere dei podisti professionisti, basta fare 10.000 passi al giorno, e se noi li contiamo non sono tantissimi se ci muoviamo nel nostro appartamento, fuori, lungo le scale, e questo può assicurare una riduzione della pressione arteriosa superiore ai 10 mm di mercurio. Ancora meglio possiamo fare col peso corporeo. Le stime generali dicono 10 kg di peso corporeo, 20 mm di mercurio sulla pressione sistolica, quindi un effetto straordinario. Bello, è 10 kg, 20 ml nella pressione. Ci si guadagna subito, quindi. Certo che buttare giù 10 kg, professor Borghi, non è proprio una passeggiata, eh? Non è una passeggiata, però questo è semplicemente, diciamo, la punta massima, il meglio che noi possiamo fare in termini di rapporto tra peso corporeo e la nostra pressione arteriosa. Ho una domandina da farle, professor Borghi. Abbiamo detto alimentazione, cioè buttare giù i chili in più, muoversi. Queste indicazioni valgono anche per le persone che sono in terapia, che stanno già chiamando il nostro numero verde, quindi assumono la o le pastigliette per tenere sotto controllo la pressione? Ha maggior ragione, vede perché io adoro la sua trasmissione, perché lei riesce sempre a riportare l'attenzione sugli aspetti importanti. Il Chi me la tiene più adesso, professor Borghi? Vedi, sono? Mi si è elevata dalla sedia di mezzo metro. Io l'ho sempre detto in qualsiasi occasione, ma mi sembra che sia vox populi questo, quindi fondamentalmente è giusto che lo riconosciamo. È proprio in quei pazienti in cui queste misure possono avere significato, perché è chiaro che ogni misura di modifica dello stile di vita, in particolare attività fisica e controllo del peso corporeo, hanno un significato preventivo nei pazienti che ancora non hanno una certa condizione, in questo caso ad esempio pazienti che hanno la pressione normale, ma hanno un effetto terapeutico nei pazienti ipertesi, dove questo tipo di approccio può essere da solo in grado di controllare la pressione o può essere in grado di amplificare l'efficacia clinica della terapia antipertensiva. Per cui ciò che noi diciamo sistematicamente è che modificare il proprio stile di vita è un corollario della terapia antipertensiva, non è un'alternativa, per cui nel momento in cui io assumo la compressa mi posso completamente dimenticare di comportarmi in maniera adeguata. Allora, andiamo subito alle chiamate dei nostri ascoltatori. Questo è un tema che davvero interessa sempre moltissimo, per cui subito ad affollare il nostro numero verde 800 24 00 24. Inauguriamo stamattina le chiamate con Luca da Como. Buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Prendo... C'è anche Debora, Va bene, ma non sono... Buongiorno anche a Debora. Sulla pressione posso dire la mia, ma lascio interloquire. Andiamo sui denari. Esatto. Luca. Allora, niente, io prendo la pastiglia da 4 anni e la tengo controllata la pressione sia mattino che sera ed è giusta, credo, intorno a 115, 120 e 75 di minima. Volevo sapere se posso dimezzarla, diminuirla. E anche perché mi sono accorto che continuando a prendere la pastiglia sono sempre, diciamo, stanco. Mentre se per qualche giorno non la prendo, diciamo che è come se mi riattivo. Grazie Luca per la bella domanda che offre al professor Borghi molti spunti. Allora, il primo è che insomma questa pastiglietta non ci va giù. Vorremmo, insomma, arrivano tanti messaggi, l'altro. Posso interromperla, posso dimezzarla. Vero. Luca descrive un effetto collaterale, si sente stanco e ogni tanto la pastiglietta non la prende, quindi sono tutte delle indicazioni, professor Borghi, che sono utili per dare dei messaggi alle persone che ci stanno ascoltando, che si ritrovano un po' nel caso di Luca, quindi hanno una terapia per controllare la pressione ma non gli va un po' strettina, nel senso che c'è questa stanchezza, ogni tanto non la prende, professore. Sì, Luca descrive una realtà molto comune, che è quella legata agli effetti sintomatici della riduzione eccessiva della pressione. Certamente Luca è un paziente modello perché si misura sistematicamente la pressione, assume i farmaci in maniera regolare, ne deriva naturalmente un effetto terapeutico efficace che probabilmente nel suo caso è eccessivo, perché questi valori di pressione che descrive sono valori di pressione ben controllati, ma noi oggi non suggeriamo di essere così aggressivi nella riduzione della pressione, ma probabilmente fermarsi su valori di pressione leggermente più elevati. Io sono certo che anche la sintomatologia generale di Luca migliorerà in maniera significativa. Quello che vorrei suggerire è peraltro quello che lui dice nella sua domanda, se può ridurre la dose di farmaco, e questo è un consiglio che certamente gli posso dare. Non la sospenda in maniera arbitraria, un giorno sì, un giorno no, perché questo incomincia a far fare alla pressione una serie di oscillazioni e noi recentemente, negli ultimi anni, ci siamo resi conto di come questa variabilità pressoria possa essere dannosa anche in quei pazienti che hanno mediamente valori di pressione normale. La pressione deve ridursi e restare stabile, quindi sicuramente sì alla richiesta di Luca di ridurre la dose di farmaco. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore, mi sono proprio una tiella vecchia. Sì. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì. Quant'è? Aspetti. Sentiamolo. Ai. Ai. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Meglio bassa che alta, professor Borghi. Diamo un po' i valori, perché noi sappiamo che ce ne sono due, uno per la minima, l'altra per la massima, due valori ugualmente importanti. Sì, sono due valori estremamente importanti, ciascuno dei quali ci dice qualche cosa di diverso probabilmente sul nostro apparato cardiovascolare. I valori di normalità sono essenzialmente valori che si collocano al di sotto del 140 di sistolico o pressione massima e del 90 di diastolico o pressione minima. Ci sono due aspetti in cui si possono tollerare valori diversi: pazienti anziani, ultra ottantenne, nel quale oggi il valore di normalità viene spostato fra 140 e 150, quindi 10 mm di mercurio in più di rispetto nei confronti dell'anziano, e i pazienti diabetici, nei quali il valore ottimale di pressione minima, di pressione diastolica, è oggi portato ad 85. Ma nella media generale, se noi dobbiamo considerare un mantra da distribuire anche agli ascoltatori relativamente alla normalità dei valori di pressione arteriosa, inferiori a 140-90. Sì. I valori sono importanti entrambi. Il valore di sistolica esprime più la massima, quindi più la nostra capacità del cuore di pompare; il valore di pressione minima più la nostra capacità delle arterie di lasciarsi dilatare. Quindi, a seconda che prevalga l'una o l'altra, possiamo dare un'interpretazione del tipo di ipertensione, ma soprattutto possiamo operare delle scelte dal punto di vista terapeutico che associno il farmaco giusto al paziente giusto. 800 24 00 24, continuate a chiamare il nostro numero verde, ci portiamo avanti perché domenica si celebra in tutto il mondo la giornata contro l'ipertensione. Quest'anno il messaggio è: impara a conoscere la tua pressione arteriosa. Quindi oggi possiamo farlo insieme al professor Borghi. Raccontateci i vostri dubbi, fateci le vostre domande, ma un domandone lo vogliamo fare anche noi. Allora, posso farla? La domandona: in quale momento della giornata la pressione fisiologicamente scende e quindi ha o dovrebbe avere valori più bassi? Al mattino, al pomeriggio o durante la notte? A chi risponderà correttamente a questo nostro domandone abbiamo anche oggi una coppia di biglietti per la data di sabato 16 maggio a Campione d'Italia del tour Pezzi di Vita di Enrico Ruggeri. Vi invitiamo a partecipare come sempre se siete davvero interessati, per cui se volete rispondete alla domanda, tempestateci di messaggi eccetera, però e noi chiamate, vi daremo qualche libro. Esattamente. Dai. Se poi siete nei pressi di Campione nei prossimi giorni e magari volete godervi anche questo tour, allora rispondeteci, appunto, e noi raccoglieremo ovviamente le vostre risposte, in cambio vi consegneremo questo dono. Professor Borghi, noi non la vediamo, ma immagino che i suoi pazienti, quando la incontrano, la vedono con il camice bianco, che lo sappiamo può giocare brutti scherzi e farci alzare la pressione. Tanto che si parla di ipertensione da camice bianco e la definizione è molto chiara, rende bene l'idea. Spesso i valori di pressione misurati nello studio del medico sono più alti di quelli misurati da un familiare o da quelli automisurati. Ma non sono solo i medici a provocare impennate pressorie. A volte basta un'arrabbiatura, un periodo di forte stress, l'ansia da prestazione. Professor Borghi, intanto andiamo subito a Giuseppe da Catania, sì, esatto, che ci racconta proprio calza a pennello la sua domanda. Succede proprio questo. Infatti. E così noi saremo molto attenti a quello che lei racconterà a Giuseppe. Insomma, facciamo finta di niente? La nostra pressione ogni tanto va per i fatti suoi? Oppure dobbiamo considerare, questo è valido solo per le persone che sono hanno dei valori normali o anche per le persone che sono in terapia? Non parlo più, lasciamo la parola a Giuseppe da Catania. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Guardi, io ho avuto un incidente per il quale sono stato immobilizzato a letto per più di un mese. Precedentemente all'incidente non avevo mai avuto problemi di nessun genere. Successivamente all'incidente, a seguito delle analisi alle quali mi sono sottoposto, ho potuto constatare che insomma, c'era qualche problema a livello di circolazione e ho fatto una serie di accertamenti approfonditi, fra i quali mi sono sottoposto anche a un costante monitoraggio della pressione. Ho acquistato la macchinetta, nella normalità la pressione comunque si manteneva intorno ai 140 come massima e 80-85 come minima. Giuseppe, venga un po' alla domanda perché abbiamo anche i mercati. Quando andavo dal medico mi si alzava puntualmente, 160, 170, una volta anche 190. Tant'è che il mio medico mi aveva prescritto, dice: senti, comincia a prendere le pillole. Io onestamente non le ho volute prendere, perché so che una volta che si iniziano poi non si possono staccare. Continuo a monitorarmi la pressione. A casa va bene dal medico si alza. Io cambierei magari medico, magari c'è un medico che le impressiona meno. Professor Borghi. Sì, sicuramente. Ci sono molti spunti interessanti nel racconto di Giuseppe. e naturalmente che non possono essere esauriti nel tempo della trasmissione, ma l'aspetto importante è certamente che esiste questa cosiddetta ipertensione da camice bianco. Altrettanto vero, bisogna considerare la differenza tra l'effetto camice bianco e la ipertensione da camice bianco. L'effetto camice bianco è il fatto che io, quando incontro una situazione emotiva, ovviamente ho un rimbalzo verso l'alto dei valori di pressione. Questa situazione emotiva può essere naturalmente anche una visita dal mio medico, dal quale magari mi aspetta una notizia non estremamente favorevole, mentre la pressione dell'ipertensione da camice bianco è un fenomeno persistente, cioè un fenomeno che per molte situazioni e molti periodi nell'arco della giornata mantiene la pressione più elevata, pur avendo anche delle fasi nei quali la pressione è normale. La distinzione tra i due deve essere fatta attraverso un monitoraggio ambulatorio della pressione, quindi prima di entrare nella diatriba se abbia ragione Giuseppe o abbia ragione il proprio medico, certamente sarebbe necessario fare un monitoraggio ambulatorio della pressione e vedere per quanto periodo della giornata questo effetto camice bianco tende a riprodursi sui valori di pressione di Giuseppe, ma sicuramente è un aspetto che deve essere preso in considerazione. Oggi poi abbiamo anche la possibilità di una condizione inversa, quella che si chiama ipertensione mascherata, cioè soggetti che hanno valori pressori perfettamente normali nell'ambulatorio del medico e valori pressori elevati quando sono immessi nella loro vita normale, ed è una variante ulteriore della classificazione dell'ipertensione arteriosa che si sta sviluppando con una certa frequenza e che richiede sicuramente attenzione. Quindi ogni volta, e quindi o sposano un medico e se lo portano a casa, oppure devono iniziare ad occuparsene di questa pressione, professor Borghi? Potrebbe non essere sufficiente sposarsi un medico e portarselo a casa. Allora, noi adesso andiamo a sentire i mercati. Intanto chiamateci, qual è l'ultima volta che l'avete misurata, quali sono i valori, siete in terapia, ma siete soddisfatti, riuscite a portare i valori della pressione ai livelli ottimali? Chiamateci. Cuore e denari. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti... Si godranno anche un po' di mare tutti quegli operatori finanziari che prenderanno parte il 21 e il 22 maggio a Rimini alla sesta edizione dell'IT Forum. Non andranno solo al mare, però, ma naturalmente avranno anche diversi appuntamenti di lavoro. Questa è una manifestazione importante di cui oggi vi anticipiamo i temi nell'ambito della rubrica Investire Informati. Parleremo, e se ne parlerà anche in quell'occasione, del rapporto fra cliente e consulente finanziario. È un rapporto importante, noi oggi lo approfondiamo dal punto di vista di un aspetto che è molto caro a Cuore Denari, quello delle emozioni. Pensate che l'emotività vi condizioni di fronte alla gestione del vostro denaro e anche di fronte ad un professionista? Avete un po' l'atteggiamento della persona che si deve misurare la pressione e teme il camice bianco, no Nicoletta? Possiamo fare questo parallelo oggi, che ne dici? Mi piace. E allora, di fronte ad un professionista del risparmio, del denaro, che cosa vi succede? Raccontatecelo all'800 24 00 24, noi ne parleremo con un coach. E vado su, e vado giù. Ed eccoci di nuovo nella parte di Cuore a parlare di pressione che va su e va giù, quindi noi parliamo di minima e di massima, parliamo di pressione arteriosa, un tema che, lo sappiamo, ci sta particolarmente a cuore, perché tutti noi sappiamo che l'ipertensione è un fattore di rischio per la nostra salute, può minacciare la salute del cuore e del cervello, due organi che sono uniti nella buona e nella cattiva sorte, ma lentamente, inesorabilmente, se non viene diagnosticata, sono tante le persone che sono ipertese e non sanno di esserlo, quindi se non viene diagnosticata e quindi trattata, può anche interferire sul funzionamento di altri organi, compromettendoli molto seriamente. Ricordiamo che l'ipertensione contende al diabete la prima causa di insufficienza renale e dialisi ed è un fattore di rischio per il declino delle funzioni cognitive e l'insorgere della demenza. Quindi perché lasciare che ci danneggi senza fare nulla per impedirglielo? Domenica 17 maggio, come vi ho anticipato, in tutto il mondo si celebra la giornata contro l'ipertensione. Noi oggi abbiamo il piacere di avere in linea il professor Borghi, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna ed è presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa. Professor Borghi, siamo tutti invitati a questa giornata? Tutti invitati e tutti invitati anche coloro ai quali voi parlate, al di fuori ovviamente della grande cerchia di ascoltatori di questa meravigliosa trasmissione, dobbiamo cercare di fare il massimo proselitismo, perché ciò che noi vogliamo è fondamentalmente che aumenti la presa di coscienza nei confronti del problema ipertensione. Ne abbiamo parlato con voi tante volte. Il punto centrale, il primo elemento che di una prevenzione efficace dei danni legati all'ipertensione è misurarsi il proprio valore di pressione, sapere di che cosa si tratta e sapere esattamente qual è la probabilità che andiamo incontro a queste complicanze. Fin tanto che noi non ci renderemo conto che questo è un problema comunque che deve convivere con noi e va affrontato in maniera educazionale, credo che non potremo mai ottenere grandi risultati. La nostra manifestazione va in quelle direzioni, la partnership che voi sempre ci accordate ci permette ovviamente di allargare questo nostro messaggio a una platea molto ampia. Professor Borghi, quindi facciamo degli inviti, vai a misurarti, oltre a partecipare alla giornata contro l'ipertensione. Immagino che ci siano degli eventi, la possibilità anche di ricevere del materiale divulgativo. Ma professor Borghi, facciamo gli inviti per bene. Se non hai mai misurato la pressione, vai a misurarla. Se hai una dieta un po' salata, se la tua dieta è dolce, se sei in sovrappeso, se sei sedentario, oppure Deborah mi suggerisce alcuni sintomi. Se gira la testa, per esempio, professore, bravissima. Può essere. Se è capitato l'altra mattina e sono corsa. Se perdi ogni tanto il sangue dal naso, se sei una donna in gravidanza, se prendi la pillola anticoncezionale, insomma tutti. Ma professor Borghi, faccia lei gli inviti, che è il presidente della SIA. Fondamentalmente quelli che lei ha fatto io li sottoscriverei tutti, e in questo nostro cartoncino di invito ideale metto la mia firma, tranne che relativamente al problema del sangue dal naso. Il problema del sangue dal naso, lei sa, è stato molto enfatizzato. La maggior parte dei sanguinamenti dal naso, quelle che si chiamano epistassi, sono epistassi venose, non hanno nulla a che vedere con la pressione arteriosa, con le arterie, e quindi molto spesso richiamano l'attenzione in maniera impropria, ma tutte le altre cose che ha citato sono sicuramente molto importanti. Però se anche il sangue dal naso ci porta dal medico e ci facciamo dare una controllatina, meglio, perché no? Certo, se quello deve essere una misura per aumentare la sensibilità nei confronti dell'ipertensione, sicuramente sì. Non ci sono dubbi che anche quello è una osservazione che può avere la sua importanza. No, io vorrei molto sottolineare quello che diceva la sua collega Deborah relativamente al problema delle vertigini, che poi molto spesso non si manifestano esattamente come vertigini, ma con una specie di sensazione di testa vuota. È una cosa che io sento descrivere molto spesso dai pazienti ipertesi, oppure una difficoltà di concentrazione per cui pur impegnandosi non riescono a essere così efficienti come pensavano di essere. Un'altra possibilità è strane situazioni in cui la frequenza cardiaca aumenta, cioè sentiamo il cuore che batte in maniera accelerata pur non essendo davanti all'amore della nostra vita o a qualche cosa di particolarmente emozionante. Ecco, in quel caso forse più che pensare a un'implicazione di tipo sentimentale può essere utile rivolgersi perché allo poco romantico, vede professor Borghi, un po' poco romantico, ma ci piace. Purtroppo così. Dobbiamo essere pratici. Voi mi avete invitato molto cortesemente, credo, per dare un messaggio pratico. Poi se vogliamo riaffrontare la stessa cosa in un'ottica molto più romantica lo potremo fare allo stesso identico modo, credo ottenendo alla fine lo stesso risultato, ma meno impatto dal punto di vista della prevenzione. Professor Borghi, un ascoltatore ci scrive: formicolii possono essere un campanellino per una pressione che non è a norma? Sì, potenzialmente sì. Devo dire che i formicoli anche in questo caso vanno interpretati sempre con grande giudizio e magari rivolgendosi al proprio medico, perché se facciamo 100 la possibilità, nell'80-90% dei casi i formicoli hanno un'origine sostanzialmente osteoartrosica, cioè sono dovuti al fatto che c'è qualche problema nella postura della nostra colonna vertebrale che produce un'alterazione, diciamo, della sensibilità periferica. Però ovviamente se i formicoli sono localizzati in una parte precisa del corpo e soprattutto se si associano a una sensazione di una minore capacità di forza o di coordinamento di quell'area in cui si avvertono i formicolii, allora a quel punto probabilmente l'ipertensione può essere in gioco. Professor Borghi, adesso abbiamo altre domande per lei, abbiamo il nostro domandone, i biglietti per il tour Pezzi di Vita, ma io le voglio chiedere, mi dia un assist per proseguire la nostra puntata oggi. È mai venuto qualcuno a provarsi la pressione da lei chiedendole esplicitamente di provarla perché era un po' preoccupato per come stessero andando i suoi investimenti, per cui voleva da testare lo stato di stress delle proprie emozioni, quindi per prima cosa fammi un po' vedere come va la pressione. Le è capitato anche questo? Ogni giorno questo succede. Addirittura? Ogni giorno, perché ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto della preoccupazione per i propri investimenti, naturalmente, per cui la tensione nervosa che deriva dal fatto di dover osservare in maniera ossessiva i propri investimenti, eventualmente per entrare con correzioni adeguate, tende a far aumentare la pressione. L'altro aspetto è una certa tendenza da parte di coloro che hanno investimenti che potrebbero essere in bilico di assicurarsi di avere ovviamente un futuro protetto per poter eventualmente ridimensionare i propri investimenti e sanno che avere la pressione alta potrebbe essere un elemento negativo, però, quindi c'è un aspetto di intervento e un aspetto preventivo, ma la frequenza con la quale io sento raccontare storie in cui l'aumento della pressione è stato conseguente a, diciamo, preoccupazioni intese in senso lato anche nell'ambito economico e finanziario è sicuramente crescente. Professor Borghi, tante telefonate a cui purtroppo non siamo riusciti a dare una risposta. Invitiamo sempre gli ascoltatori di Cuore Denari a scriverci una mail, perché noi naturalmente cerchiamo di rispondere a tutti, inoltriamo le vostre richieste ai nostri esperti. Andiamo però a Paolo, che ci chiama dalla provincia di Verbania, che ci dà il secondo assist. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, siamo quasi sulle strade noi, però se lei è sintetico il professor Borghi le dà una risposta. Allora, io ho 60 anni e noto che una telefonata, ma non di tensione, anche una telefonata, insomma ogni volta che mi accaloro, parlo al telefono, parlo con gli amici, sono a tavola ma anche in conversazioni piacevoli, più parlo e più sento i sintomi che la pressione si alza, ronzio, le orecchie... testa vuota, sì. Cambiamo persone da telefonare a cui telefonare. Paolo, quindi a lei adesso sente tutti questi sintomi? Adesso che vede, allora chiami sempre Cuore Denari, già capito la professor Borghi, noi siamo terapeutiche. Professore, per la verità devo dire che ciò che dice Paolo è l'essenza della vita, cioè noi siamo in grado di accalorarci, siamo in grado di partecipare, siamo in grado di farci coinvolgere in quello che ci succede intorno proprio perché abbiamo delle oscillazioni fisiologiche dei nostri valori di pressione arteriosa. Se la pressione non si modificasse noi non saremmo mai preparati ad affrontare situazioni emozionanti, per cui saremmo fondamentalmente dei vegetali, delle carote, non saremmo certamente degli uomini o delle donne in grado di reagire a ciò che il mondo ci propone. Grazie professor Borghi per essere stato con noi, buon 17 maggio, torni prestissimo a trovarci. Quando volete, per me è sempre un grande piacere. Va bene, ottimo. Verremo anche a Bologna, professor Borghi. Esattamente. Gliela butto lì. Esatto. Gliela buttiamo lì. Ecco, tenga lei l'agenda bella sgombra nei prossimi giorni per noi. Va bene, intanto Giuliana da Como, che si è candidata per i biglietti, ma noi la sentiamo perché continuiamo. Mm-hmm. Nella seconda parte. Solamente un minutino di pazienza, giusto per sentire quello che sta succedendo sulle strade, le autostrade italiane, tra poco. Cuore e denari. Senti un po', prima di partire con il nostro prossimo approfondimento, salutiamo Giuliana, la nostra amica. Dai, brava, sì, Giuliana! Brava, allora, è che grazie. Se la ride ci già. Dà senti tante soddisfazioni. Esatto, allora intanto ribadisci tu il cuzzettone. Allora il domandone era il momento della giornata, mattino, pomeriggio, notte, sera, in cui la pressione fisiologicamente si abbassa. Giuliana, non c'è più il professor Borghi, ma noi la risposta la sappiamo. Sì. Qual è il momento della giornata? Per me è la notte, non so se sbaglio. Brava. L'applauso dice che è nel giusto. Brava, e quindi Giuliana si incammina va campione d'Italia a sentire Enrico Ruggeri. Perfetto, grazie. Canti grazie a squarciagola anche per noi. Non so se cantare a squarciagola fa aumentare o diminuire la pressione, ma va liberatorio, divertentissimo. Bene. Grazie Giuliana, buona giornata. Io mi riacciuffo intanto il microfono per andare dritta all'appuntamento fisso del giovedì. Investire informati. Eccoci qua, ritroviamo allora Investire Informati. Oggi è giovedì, il nostro dialogo settimanale sui temi del risparmio con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, con i quali facciamo due chiacchiere sui fatti di cronaca finanziaria e temi di investimento di maggiore interesse e non solo. Oggi anticipiamo i temi di una grande manifestazione che si svolge la settimana prossima a Rimini, l'edizione 2015 dell'IT Forum, dove IT sta per Investment and Trading. Ti è piaciuta? Perfetto, ecco. Una pronuncia magnifica. Uno dei temi dei quali si parlerà sarà il rapporto fra cliente e consulente finanziario. Oggi proprio andiamo a scavare anche nell'emotività dei nostri ascoltatori. Noi oggi però affrontiamo questo tema non mettendo a confronto i nostri ascoltatori con il mondo dei consulenti finanziari, i promotori o le figure tipiche della consulenza, ma discutendone con un coach. Quindi parleremo di emozioni legate all'investimento. Quanto è importante la componente emozionale? Quanto conta per voi? Quando andate ad un colloquio con la persona che vi aiuta nella pianificazione finanziaria, vi lasciate condizionare dall'emotività o riuscite a mettere in campo e a sfoderare tutta la razionalità di cui siete capaci? Non è facile, credo. 800 24 00 24 è il numero verde a cui potete raccontarcelo, e soprattutto raccontateci quando è stata quella volta in cui avete fatto un investimento, così lo ribattezziamo, incauto, perché l'emotività ha avuto la meglio. Quando invece è successo il contrario, perché magari avete avuto una grande lucidità e vi siete resi conto in un secondo momento di avere fatto una scelta non felice, no? Razionalità a tutta birra, e poi si scopre che magari se l'emozione avesse avuto un pochino la meglio, l'intuito forse... Brava, lasciarsi portare dal cuore e dal cervello. Esatto, insomma, qua metterli insieme tutti e due è proprio difficile. Lo sa bene Luisa Bagnoli, amministratore delegato di Beyond International. Benvenuta. Grazie a voi. Benvenuta a Cuore Denari. Allora, la dottoressa Bagnoli sarà protagonista di un incontro dell'IT Forum che si svolgerà venerdì 22. Si intitola L'investitore al primo posto. Sì. Che cosa racconterà in quell'occasione? Ma allora, diciamo che cercheremo di far capire, andiamo anche verso un mercato che sta cambiando, no? Quindi si parla davvero di consulenza, una legge c'è, andremo a cambiare un po' anche le regole del mercato. Quindi quello che vogliamo trasmettere è che certi comportamenti pratici possono, le regole, ecco, possono essere tradotte in comportamenti pratici win-win per investitore, consumatore, come lo vogliamo chiamare, perché poi alla fine è un po' tutto incentrato sul consumo, no? Se io investo bene, consumo meglio. Certo. Mm-hmm. Dottoressa Bagnoli, lei fa da coach ai consulenti. Sì. Che devono vendere oggi non più soluzioni di investimento, non solo soluzioni di investimento, prima di tutto devono vendere la loro professionalità, no? Ci spiega cosa c'è dietro il concetto di vendita emozionale, perché anche nel processo di vendita è importante comunicare emozioni, anche se io so già che se c'è qualche consulente finanziario che ci ascolta, contesterà il fatto che lo descriviamo come venditore, ma naturalmente questo non è... No, hanno anche ragione, volendo, dipende le parole come vengono riempite di contenuto. Allora, vendita emotiva forse è un concetto didatticamente un po' anni 80, no? Quando facevamo tanti corsi, PNL, si muovi così, si vende così. Oggi andiamo un po' oltre e andiamo veramente sulle emozioni, e l'emozione principale è l'ascolto. Quindi se il venditore vuole essere un consulente, quindi non è un venditore, non vende ma si fa comprare, e tutto questo passa attraverso l'ascolto. Quindi le emozioni che oggi si mettono in gioco devono partire prima dal consulente, che deve raccogliere le emozioni altrui, perché alla fine quando parliamo di investimento in o in, quello che ci sta dietro sono delle esigenze familiari, personali, delle paure. Quindi a seconda del peso, no? Ci sono tanti moduli che riempiamo per che rischio percepito, dove andiamo. Prima di arrivare a quei moduli, a quella modulistica fredda, probabilmente bisogna veramente capire il vissuto della persona che abbiamo davanti. Certo, quindi questo è il primo presupposto, il presupposto più importante per creare una relazione costruttiva con un cliente, e il cliente deve essere capace di capire se la persona che ha davanti a sé lo sta adeguatamente ascoltando. Sì. Generalmente, se i nostri ascoltatori hanno voglia di dircelo, che sensazione hanno provato durante un approccio di questo tipo, io credo che, come in ogni relazione, tu appunto parlavamo di istinto e raziocinio, no? Almeno il giorno dopo, dormendoci su, tu lo sai se ti fidi o no. Poi a volte, facendo i più e meno da foglio Excel, perché siamo tutti cartesiani, ci perdiamo l'altra parte dominante del nostro cervello destro, anzi, che è quella che ci farebbe prendere la decisione giusta. Ecco, quindi qua, se anche noi come consumatore ascoltiamo, scegliamo bene il nostro consulente. Da questa considerazione partiamo più tardi nella seconda parte di Cuore Denari, dopo il giornale radio, tra poco.